Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Fabbri 1905. Amarene e dolcezze d'autore. Di Maria Chiara Grandis. Io sono nato e sono cresciuto all'interno di queste mura. Io conosco questo luogo meglio di chiunque altro. Evidentemente la mia vita, dal profondo del mio cuore, era qua. Nicola Fabbri, classe 1964, è entrato in azienda ancora prima di laurearsi. La sede di Borgo Panigale a Bologna è custode della memoria dell'attività di famiglia, creata nei primi anni del secolo scorso dal bisnonno, Gennaro Fabbri. Un'impresa oggi guidata dalla quarta generazione di eredi, che fattura 60 milioni di euro. È presente in 90 paesi con prodotti del settore dolciario. Dalla gelateria alla pasticceria, dagli sciroppi ai semi lavorati per l'industria alimentare. Ma tutto iniziò a Porto Maggiore, nel Ferrarese, con un prestito di 3.000 lire che Gennaro chiese al fratello per rilevare la drogheria del paese. Nel retro di questo negozio c'era uno spazio in cui lui incominciò a mescolare dei liquori per i contadini, quindi per il mercato super locale. A questi liquori diede un nome che fosse anche un nome un po', diciamo, che li aiutasse a vendere. C'era anche una forte influenza del nuovo movimento socialista, quindi il primo liquore fu chiamato Cordiale Primo Maggio, poi fu dato il Nobel a Giosuè Carducci, quindi creò l'amaro Carducci. Il terzo liquore si chiamava Virov, era un marsala all'uovo che serviva proprio come energy drink, diremo oggi, per appunto dare quell'energia che era necessaria per andare a lavorare nei campi. Quindi questi primi tre furono i liquori del nonno Gennaro. La produzione degli sciroppi inizia negli anni 20. I primi sono la menta e la granatina, ed è nello stesso periodo che nasce il prodotto che contraddistingue l'azienda in Italia e nel mondo, l'Amarena Fabbri, con il vaso di ceramica bianco e blu. Nella campagna la nonna Rachele, la moglie, per casa metteva in conserva le amarene, le cuoceva insieme a dello zucchero, a qualche aroma che magari trovava anche dal marito e faceva questa amarena. Il marito dice: "Va, proviamola a vendere un po' in negozio, vediamo come va", e le cose incominciarono ad andare bene. Quando si trasferirono poi a Bologna nel 1919, incominciarono a produrre in grandi quantità la amarena, che aveva già cominciato ad avere un buon mercato a livello regionale. Per rendere la cosa più ancora appetibile ai consumatori e soprattutto per dare un look buono a questo prodotto, lui cercò di creare un contenitore dove versare le amarene, che erano vendute in damigiane di vetro. Questo contenitore lo fece fare da un grande ceramista di Faenza che si chiamava Gatti, ed è il vaso dell'Amarena Fabbri, che oggi è conosciuto in più di 90 paesi del mondo e che è diventato un po' il simbolo, fra virgolette, nobiliare della casa. Ben presto i figli di Gennaro Fabbri, Aldo e Romeo, affiancano il padre in azienda. E anche in questo caso il buon bisnonno ha un'intuizione geniale e investe una cifra immensa nel comprare due automobili che erano assolutamente fuori serie: una Isotta Fraschini, che era l'auto delle dive, e una Itala, che era una macchina sportiva, aveva fatto la Parigi-Dakar. Queste due vetture erano la fonte maggiore di introiti per l'azienda, perché per fare un giro in queste macchine i clienti erano disposti a fare ordini anche molto grandi. Negli anni 30 nascono le ciliegie al liquore e si amplia la gamma delle confetture. Prima di morire, Gennaro lascia in eredità ai figli anche il bar centrale di Bologna, che diventa il luogo dove assaggiare i prodotti Fabbri. Il locale oggi non c'è più, ma di quell'esperienza rimangono i cremolati, ingredienti che i maestri gelatieri utilizzano per preparare il gelato, un'invenzione a cui la famiglia Fabbri deve la sua fortuna e che stimolò lo sviluppo della gelateria nel secondo dopoguerra. Quando riprese in mano l'azienda, che nel frattempo era stata trasformata in un magazzino per l'esercito tedesco, il nonno acquistò una pagina del Carlino, il quotidiano di Bologna, e scrisse che avrebbe riassunto tutto il personale. Questo è un documento che abbiamo ancora oggi in bacheca e che ha voluto dire molto, perché ancora una volta il legame della famiglia con l'azienda si è dimostrato estremamente importante. Rimessa a posto l'azienda, ricominciarono la produzione e oggi siamo qua. Abitiamo e lavoriamo negli stessi ambienti. Molti dei nostri collaboratori sono figli o nipoti di quelli che c'erano allora. È la vera ricchezza di questa azienda. Forte quanto il legame fra casa e bottega, c'è quello fra la famiglia Fabbri e la città delle due torri. Bologna è una città votata alla gastronomia e quindi questa, la sua particolarità, ha influito moltissimo anche nella nostra storia. La creatività, il trovarci anche in famiglia a pensare a prodotti nuovi, viene proprio da questa tradizione cittadina. Quindi il nostro debito nei confronti della città è proprio anche nell'aver assorbito questa passione per la cucina e per il cibo in generale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono Fabio e Giorgio, nipoti del fondatore, ad assumere un ruolo di primo piano in azienda. Mentre il mondo conoscerà il gelato made in Italy con i laboratori itineranti, la produzione dei liquori durerà fino agli anni 70, quando le multinazionali iniziarono a spartirsi il mercato mondiale. Nel frattempo, lo stabilimento si trasferisce ad Anzola dell'Emilia e la Fabbri entra nelle case degli italiani con la pubblicità e il carosello. Nel mio cuore c'è il pirata Salomone, il pirata Pacioccone, che ha accompagnato insieme a molti altri protagonisti di carosello le mie serate prima di andare a letto, come facevamo tutti a quell'età. I primi spot furono quelli dei grandi artisti. Si chiese a dei grandi pittori di allora, fra cui Guttuso, di essere filmati durante la preparazione di una delle loro opere. E quindi anche in questo caso c'era la ripresa della creazione dell'opera dell'artista, e poi staccato c'era un comunicato pubblicitario del Grand Senior Fabbri, che era il nostro brandy. Oggi siamo passati con convinzione a internet, al web, che coinvolge un numero amplissimo di bloggers che ci forniscono ricette con amarena a noi graditissime, anche perché molto speciali, molto, molto creative. Dal 1997, nella sede di Borgo Panigale, è attiva la Scuola Permanente Internazionale di Gelateria e Pasticceria Artigianale della Fabbri e nel 2005 l'azienda ha festeggiato i 100 anni di attività. È stato l'anno in cui è iniziata questa bellissima esperienza della Premio Fabbri per l'Arte. Prendendo spunto dalle prime pubblicità, 50 anni dopo abbiamo pensato di rivolgerci un'altra volta agli artisti più famosi in Italia di arte contemporanea e di chiedere loro se avessero voluto produrre qualche cosa che avesse come elemento di ispirazione la Fabbri o la Mareno. La risposta è stata entusiasmante. Più di 30 artisti hanno prodotto un'opera ed è stata la prima edizione di un evento che ormai è diventato un appuntamento fisso biennale nel calendario degli eventi dell'arte italiana. A proposito di celebrazioni, per i 150 anni della Repubblica, Fabbri ha creato il Dolce Italia, naturalmente bianco, rosso e verde. Il Dolce Italia ci è stato chiesto da un'organizzazione che si chiama Ciao Italia e che è un'organizzazione di cuochi e di ristoratori italiani nel mondo, e abbiamo creato una torta, un semifreddo con i gusti tipici italiani, quindi la mandorla, il pistacchio e ovviamente la marena. Nicola Fabbri guida l'azienda ereditata dal bisnonno con il fratello e i cugini. Compito della quarta generazione è quello di consolidare il brand familiare nel mondo. Oltre a quella italiana, la Fabbri 1905 oggi vanta 10 sedi all'estero. Quella di Buenos Aires produce il 70% dei prodotti venduti nel mercato sudamericano. Poi ci sono quelle commerciali in Germania, Francia, Singapore, Brasile, Stati Uniti, Cina. La Cina è nata 10 anni fa con molto scetticismo, con anche molto timore, ma diciamo grazie un po' al tipico lavoro dell'esportatore italiano che con la valigetta va a cercare di far assaggiare i propri prodotti agli stranieri, siamo riusciti ad introdurci in un panorama non tanto di espatriati e quindi di locali fatti da stranieri in Cina, ma abbiamo fatto conoscere il gelato e i nostri prodotti ai cinesi, perché pensiamo che il futuro sia nel popolo cinese, non tanto nel popolo degli espatriati in Cina. Questa avventura nata 10 anni fa si è trasformata 3 anni fa in un'azienda che fa trading e quindi importa e distribuisce i nostri prodotti. Le cose stanno andando bene, speriamo porti la Fabri a festeggiare il prossimo centenario in Cina come azienda conosciuta tanto quanto lo è in Italia e nel resto del mondo. 60 milioni di euro di fatturato annuo e 250 dipendenti impiegati in Italia. La Fabri non ha risentito della crisi economica. Il perché lo spiega Nicola Fabri, che ci racconta anche i prossimi obiettivi dell'azienda bolognese. Dopo aver ascoltato tante brutte notizie, dopo aver magari avuto una pessima giornata di lavoro, un gelatino dà quell'attimo di serenità e di gratificazione che difficilmente lo si elimina dalle proprie abitudini. Penso che il prossimo passo sia il continente africano, che oggi incomincia ad essere molto interessante. Vediamo, diciamo, a macchie di leopardo crescere delle economie che si affacciano al mercato e che si affacciano ai consumi diciamo occidentali e che hanno voglia di imparare e di gustare anche le delizie italiane. Oggi la quinta generazione si prepara a prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia. Ancora una volta il testimone passerà di padre in figlio, nel segno di una tradizione nata nel 1905. E chissà cosa ne direbbe Gennaro Fabri. Io me lo sono chiesto molte volte, ma non so cosa direbbe. Io credo che sarebbe senz'altro molto orgoglioso. Con gli occhi di un uomo dell'inizio dello scorso secolo, che ha avuto delle incredibili intuizioni, probabilmente sarebbe molto felice di vedere che queste sue intuizioni hanno dato un buon frutto. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.